Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio. Luisito Suarez non è stato soltanto una delle più grandi mezze ali del dopoguerra. Era anche, ed è rimasto, una delle persone più estroverse, più divertenti del mondo del calcio. Qui lo riascoltiamo, ed era il 28 settembre, in un momento complesso della stagione interista, poco dopo la staffetta di panchina tra Gasperini e Ranieri. Buongiorno. Senti, grande di Spagna. Insomma, intanto a pieno titolo, perché ricordo agli ascoltatori che c'è un solo giocatore nato in Spagna che sinora abbia vinto il pallone d'oro, e questo giocatore si chiama Luisito Suarez. Non mi pare che sia toccato ad altri questo onore poi, Sì, è così. È così. L'anno scorso sembrava che avevano puntato questi due giocatori del Barcellona, ma già l'hanno dato a Messi di nuovo. Certo. Sono rimasto solo ancora un po'. Ti ha fatto piacere o ti è dispiaciuto? No, mi è dispiaciuto, che mi piacerebbe avere una buona compagnia. Io penso che poi questi due ragazzi, sia Iniesta che Xavi, avevano fatto un'annata molto, molto bella, perché in questo premio è dato a una determinata annata che tu fai più bene di un altro, non certo. Anche tu sei migliore dell'altro. Certo. Però vabbè, è così, rimango lì con questo piccolo così gioiello. Che hai difeso per 50 anni ormai, perché stiamo parlando del 61 forse. Sì, eh? Del 60. 60 del 60, sì. Quindi abbiamo passato il mezzo secolo di pallone d'oro. Sembra una roba impossibile. Luisito, allora, voglio dire, il giocatore più o meno l'abbiamo ricostruito, no? Nella sua dimensione. Sei stato allenatore, sei stato selezionatore nazionale, campione d'Europa con la Spagna Under 21, quindi l'esperienza ce l'hai a tutto tondo. Ci aiuti a capire come si passa in 7 giorni da Novara a Mosca? No, si fa lasciando le cose un po' così, senza intervenire drasticamente su tante situazioni che magari piano piano dopo l'allenatore dovrà intervenire, perché si tratta di dare magari un po' di tranquillità, di fiducia, di parlare con qualcuno che non aveva giocato e dargli la speranza o farlo giocare, insomma usare un po' il buon senso e tentare di far punti, che fortunatamente l'Inter li ha fatti, e dopo piano piano intervenire sulle diverse situazioni che non vanno. Che non funzionano. Certo. Sì, certo, magari facendo anche tesoro di qualche errore, ammesso che ci fossero errori da parte di Gasperini. Secondo te, prendendo come modello negativo Novara, che cosa ha cercato di cancellare innanzitutto Ranieri? Ma niente, penso che Gasperini ha commesso qualche errore, perché per esempio ha lasciato fuori Pazzini completamente della mischia, quando era un giocatore che era in forma, perché lo abbiamo visto appena l'hanno fatto giocare, è il più in forma, perché la squadra fa fatica fisicamente, questo ragazzo invece era quello, diciamo, più brillante, certo. Anche, no? Oltre a che fa gol. E poi Gasperini aveva commesso qualche errore, tipo anche a Palermo ha fatto giocare, non scordiamocelo, Zanetti difensore centrale di sinistra, in una difesa a tre, insomma, ha messo un po' di giocatori fuori posto, non è riuscito a cercare una situazione per Schneider. Tu, il giocatore più importante dopo la partenza di Eto'o che hai in squadra, non lo puoi lasciare da parte, anche rispettando le tue idee, ma cerca di fare qualche cosa per inserire e costruire la squadra attorno al giocatore più campione, intorno... E questo non l'ha fatto, e poi ha pagato che qualche giocatore, non so se la Coppa America o Liani o quello che è, che fa fatica a partire in aspetto fisico. Sì. E poi qualche infortunio, perché adesso teniamo conto che l'Inter, a parte la partenza di Eto'o che è stata molto importante, c'ha Maicon fuori che è un giocatore determinante, c'ha Schneider anche fuori per infortuni adesso determinante, c'ha Stankovic fuori determinante, insomma. Sì. Potrei anche aggiungerti, se accetti la battuta, che c'è anche Julio César dentro, però. Che no, dico, c'è anche il portiere dentro, che potrebbe essere un problema. Ah, no. Può darsi, sì. No, nel senso che non sembra davvero. Sì, ogni tanto, sì, ogni tanto è un periodo che fa delle cose un po' strane, fa delle cose belle e poi fa. Sì. Vince, insomma, sì, non ha... Effettivamente. È difficile per me definirlo perché io i portieri non li considero giocatori di pallone, allora cioè, sì. Non riesco a giudicarli proprio bene. Sono una razza a parte, sì, per... infatti, sono una razza a parte. Per Luisito Suarez. Le cose da tutta un'altra situazione, da un altro mondo. Infatti si buttano sempre per terra, volano, ecco. Chi vola di là, cioè non sono giocatore di calcio. Ma dai. Si capisce. Senti Luisito, però insomma c'è qualcuno ed è più di uno in realtà che dice, però 7 giorni così, tra l'altro sulla stessa superficie, no? Perché era sintetico, sì. Novara ed era sintetico Mosca. È vero. Insomma, c'è gente la cui metamorfosi di rendimento di cosa, faccio il nome di Cambiasso per esempio, ti dà da pensare, no, che è vero, ti trovi meglio, no. Sei in una squadra, sì. Più razionale eccetera, però magari ci metti anche qualcosina di più, sì, insomma. Può darsi, magari se uno non è in una situazione ideale magari si lascia un po' andare, non dà il 100%, dà l'80%, sai, si comincia ad avere magari 2 o 3 che danno l'80% invece del 100%, facendo una somma, dopo queste cose si sentono, no? Certo. Può darsi anche però che sia una questione di che non erano a posto, poi piano piano, molto piano piano, perché ancora rimanca la squadra, ha sofferto, sì. Troppo nel secondo tempo, anche in Russia, e stanno un po' recuperando, è l'augurio che ci facciamo tutti, perché sennò ci sono parecchi giocatori importanti dentro la rossa dell'Inter, che non sono a posto, e questo tra l'altro bisogna recuperare questi giocatori al massimo e infortunati, e allora potrebbero tornare le cose a funzionare come si deve. Come si deve. Luis, hai dato un'occhiata anche al Napoli ieri sera? Sì. È una brutta bestia. Stai già pensando a sabato, è una brutta bestia. Sì, in questo momento sì, soprattutto per l'Inter attuale. Diciamo che la partita di sabato è una partita molto importante per tutte e due le squadre, no? Sì. Perché il Napoli si desse un ulteriore, si vincesse una partita tipo a Milano, con questa autorità con cui sta giocando anche in Europa, eccetera. E sarebbe da dire, signori, con questi qua bisogna contarci, bisogna tenerne conto sia in Italia che in Europa, no? E l'Inter invece se la facesse sua la partita contro un avversario di questa levatura in questo momento, vorrebbe dire che sta rientrando, sta arrivando alla situazione normale che le compete, no? Penso che sia in questo senso due esami molto... molto importanti per tutte e due. Ma infatti, secondo me c'è un paradosso di calendario, correggimi se sbaglio, nel senso che dopo 4 giornate c'è questo grande equilibrio. Sì, poi, sì. Alla quinta, cioè proprio alla vigilia di una sosta, quando il campionato comincerà, secondo me, ad accendersi sul più bello, certo. Arrivano Inter-Napoli, ma anche Juventus-Milan, che sono proprio due cose che cambieranno, sì. Il corso della stagione. Sì, quest'anno il calendario ha fatto ritrovarsi subito le partite molto importanti, molto in fretta, no? Poi ci sono queste interruzioni per cui non so, diventa il campionato. Comunque diciamo che di queste cose, sia magari la fermata, sia questo non partire forte nessuno, sia stato favorito, almeno sotto il mio pensiero, l'Inter, no? Perché sì. Altrimenti come ha iniziato l'Inter il campionato rischiava che qualcuno partisse e dopo è difficile raggiungere, andare, mentre che così stanno un po' tutti lì, insomma, dai. Certo. Senti, ho letto oggi, chiudiamo con una battuta fino a un, sì. Certo punto, no, ho letto oggi su più di un giornale una conversazione con Rafa Benitez, che è sempre stato un grande signore anche quando, sì. Quando era all'Inter eccetera, sì. Che oggi dice una cosa, per carità, secondo me dice una cosa normale, dice ma io non l'avevo capito prima, ma Moratti probabilmente è troppo tifoso. Beh, io dico, si vede che non l'avevi avvisato prima, sì, perché... non è una novità. No. No, la unica cosa solo che puoi prenderla, non so, se lo dici proprio come una critica così, magari dici come mai, però tutti lo sanno, lo definiscono tutti così, non è che sia una cosa... Che sia... Ma io penso che lui sia rimasto molto scottato di questa cosa, che secondo me le avevano promesso che le avrebbero preso qualche giocatore, certo. Che lui aveva capito che la squadra andava piano piano rinfrescata, no? E questo lo sappiamo tutti che va rinfrescata, non l'hanno rinfrescata, e gli hanno detto forse di sì, e poi invece il sì si è tramutato un no,

problematica riguardo ai bambini in questi anni, li abbiamo successivamente con gli anni più in là, certo. E quindi lo trovo anzi quasi contrario a questa cosa, perché comunque, secondo domanda, va a sparire la figura dell'arbitro, che comunque è un tornaconto per i bambini quando si troveranno ad affrontare altre problematiche più avanti, cioè il lavoro e quant'altro, cioè dare conto a una persona che ha delle decisioni da mettere in campo. Ecco, questa è una domanda. No, ma è abbastanza chiaro, a parte l'audio che non era perfetto. Io la giro subito. Si sentiva così male. Io la giro subito a Gianni Rivera, infatti. Credo che sia questo. La figura dell'autorità, il dover rendere conto a qualcuno, Gianni, prima o poi arriverà. E quindi perché posporla, più o meno, mi sembra di aver capito. Ma io penso che sia una questione. Ognuno è chiaro che ha la sua valutazione personale, il fatto che si sappia che esiste l'arbitro lo sanno i bambini anche appena nati, quindi non è un problema farlo sapere. Il nostro desiderio è questo, di fare capire proprio la difficoltà che ha un arbitro nel prendere una decisione nel giro di pochi secondi, sì, ecco. e doverla prendere magari contro il desiderio e la volontà di tutti gli altri. E quindi uno, se sa che l'arbitro quando lo fa con la giusta difficoltà personale, lo può capire meglio se l'arbitro sbaglia. C'è dubbio. Credo che sia un modo per responsabilizzare, l'ho detto all'inizio, era proprio questo lo spirito. Certo. Non pensiamo affatto di togliere gli arbitri, perché senza la figura dell'arbitro è impossibile organizzare una partita di calcio. A quel livello, se si responsabilizzano i ragazzini, tanto più che la categoria arbitrale è d'accordo proprio perché sa che può essere utile per un domani, per avere il giusto rapporto fra gli uni e gli altri. Grazie Presidente. Grazie a voi, buona continuazione. Bella storia davvero, bella storia anche quell'aggancio di Rivera, no? Cioè perché è in sintonia con la filosofia più giusta per il mio, che è quella di proiettarci nel futuro vivendo un presente che si ispira ogni tanto anche a qualche buona idea del passato. È cominciata venerdì 18 novembre e finita lo scorso mercoledì 21 dicembre, una buffata senza precedenti di calcio in diretta televisiva tutte le sante sere, calcio di ogni ordine e grado, rigorosamente in diretta e in orario di massimo ascolto. Prima che cominciasse, lo scorso 15 novembre, ne avevamo parlato con Fabio Fazio. Buongiorno Fabio. Buongiorno Gigi, grazie molto. Se ti dico 33 serate... Dica 33. Sì, in questo caso è un sintomo di malattia secondo me. Ma guarda, sai, tu hai iniziato questa conversazione con C'era una volta, no? Mm-hmm. Che è un incipit che induce immediatamente a pensare alle favole e se vuoi anche alla malinconia. Io credo che bisogna partire proprio da qui, nel senso che bisogna avere la freddezza, credo, per ragionare su questi argomenti senza alcuna malinconia, nel senso che io non credo che abbia valore il rimpianto, né era meglio prima quando si giocava la domenica, cioè è banalmente un dato di fatto, cioè sì. Nel senso che quando qualunque prodotto diventa un prodotto di consumo, come dice la parola, si consuma e quindi alla fine è vero quel che dice, cioè il calcio, la Pay TV finanzia il calcio e finanzia un prodotto che diventa sempre meno prezioso, sempre meno desiderabile proprio perché ce n'è tanto. E questa cosa qui lo fa diventare un oggetto di consumo, lo fa diventare un'abitudine, lo fa diventare ovvio, e come tutte le cose ovvie alla fine non conta più niente. Per cui personalmente, insomma, devo dire, io nuto nei confronti del calcio televisivo un'assoluta neutralità, ecco, diciamo, non dico ostilità, ma dico neutralità. Proviamo. Non le distingo più, capisci? Non me le ricordo, non so più chi ha giocato contro chi, non mi ricordo niente. Certo. Sovrapponi i gol, metti che li vedi, dici, ma quello lì ha segnato in campionato o in coppa? Beh, era tre sere fa o era. Certo, ma poi guarda, tra l'altro non vorrei esagerare, ma assomiglia sempre di più a una imitazione e non viceversa del videogioco in 3D. cioè sì. nel senso che in realtà c'è, nel momento in cui il mondo mette sul mercato videogiochi con quel tipo di definizione, di precisione, paradossalmente diventerebbe molto più importante riacquistare tridimensionalità e carnalità vera. Invece persino l'abuso di calcio sul vettore video subordina il calcio al videogioco e non viceversa, cioè esatto. Sono le partite un'imitazione del videogioco perché ormai quella cosa lì la puoi fare da solo tranquillamente a casa tua con i videogiochi, non hai bisogno delle partite vere, certo. Hai lo stesso tipo di risultato, quindi insomma è indistinguibile da un videogioco dal mio punto di vista. Senti un po', ma è evidente che una cosa del genere crea dipendenza, perché se non creasse dipendenza non ci sarebbero fruitori disposti a sacrificare, e ce ne sono, tutte le sante sere. Cioè, come può essere cambiata anche la vita familiare, la vita di coppia? Guarda, innanzitutto crea convenienza, no? Più che dipendenza. Innanzitutto convenienza, nel senso che conviene alla genovese, la convenienza, al limite, no? Al limite estremo, sì, al limite estremo, cioè spingere tutto al limite. Crea dipendenza, ora sì, insomma, non sono in grado di stabilire se sono sempre gli stessi che guardano tutte le partite. Però o no. Uno zoccoletto duro. Però, certamente può essere che quello che tu dici sia vero, insomma, cioè che ci sia una. D'altronde, da questo punto di vista, è una forma antica di soliloquio, perché oggi ci sono Facebook, Twitter, eccetera, per cui in realtà c'è anche molta gente che, pur di non vivere con le persone fisiche accanto, fa qualunque altra cosa. Si rifugia ovunque. Si rifugia ovunque, sì, insomma, questo è un male, diciamo, oscuro, contemporaneo, secondo me, molto, molto, molto diffuso. Ma per rimanere però davvero a quello che dicevi prima, al calcio, insomma, ecco, quando tu hai iniziato col C'era una volta, riprendiamoci il coraggio di dire che c'era una volta, in questo caso è veramente meglio, però, perché insomma, anche il Natale è una festa, se tutti i giorni fosse Natale perderebbe evidentemente il suo significato. Questo è. Questa cosa qui è come le ciliegie a Capodanno, insomma, cioè non importa più niente di aspettarle, quindi in realtà non è vero che ho di più, abbiamo la sensazione maledetta di avere di più, come questo tempo connotato dalla quantità ci ha purtroppo ormai addomesticato, ma abbiamo perso sempre di più, in realtà perdiamo sempre di più, ogni volta che ci danno qualcosa in più la stiamo perdendo e non ce ne accorgiamo, e sino temo ad implodere. Temo anch'io. Senti, uso questo verbo che hai ripetuto adesso, che è quello di perdiamo, lo uso in termini più volgari, perché anche tu a tua volta, e questo ragionamento chissà le volte che l'hai fatto, sei una vittima della pay TV. Vittima, andiamoci piano, perché mi pare che l'ultimo dato di domenica sera sia stato 5.200.000 e fischia, no? Quindi, però sì. Io sono convinto che, a cominciare da me, sia il sabato sera che la domenica sera, alla tua ora, all'ora di che tempo che fa, insomma, un buon numero di persone sia, nel mio caso, abbastanza costretto per ragioni professionali, in altri casi per libera scelta, comunque hanno l'offerta della partita, che è forte, e a quell'ora lì sono sempre le partite di cartello. Sì, sì, non c'è dubbio. No, guarda, in termini di share, come sai, complessivo, diciamo, rispetto al nostro ascolto, una partita più o meno importante cambia, diciamo, di un punto e mezzo, che non è poco, ma non è determinante, sì, no? Certo. Anche perché poi viene distribuito su tutta l'offerta in chiaro, quindi non è una riflessione, diciamo, egoistica. No, è ovvio che a volte piacerebbe pure a me vedere la partita che non posso guardare, però se riflettessimo per un momento a come soltanto 10 anni fa, in fondo, diciamo 12, di quale ricchezza disponevamo nel poter avere in una concentrazione unica della domenica pomeriggio tutte le partite in una volta sola, è quanto in realtà quanto oggi ci è stato tolto, non quanto ci è stato dato, quanto ci è stato tolto, almeno dal mio punto di vista, perché per fare l'esempio contrario è come se un Natale distribuito durante tutto l'anno però non potesse compiersi che in tutto l'anno, per cui ogni giorno puoi appendere una pallina all'albero, no? Ma insomma, alla fine ti sei solo annoiato e hai perso anche l'attesa, insomma, invece quella cosa che avevamo in una volta sola, era una festa di cui non ci rendevamo conto, evidentemente, ma del resto poi Gigi, da allora a oggi i ragazzini non dicono più perché squadra tifi, ma ti dicono per quale società per azioni a quale si dà affezione, come ci si fa ad affezionare a una società per azioni? Difficilino. Pensa che da un punto di vista storico, dunque, la prima puntata di quelli che è il calcio, quella del 26 settembre 93, quindi credo antecedente ancora al tuo arrivo. C'era la prima abbiamo costruita. Pensa che il 26 settembre 93 ci fu un posticipo serale, un Cremonese Milan 0-2 con doppietta di Papè. Mi ricordo che facemmo il 9% di ascolto quella puntata, che era un trionfo per i tre. Certo, che poi fu destinato, no, ad arrivare a 26, insomma, a numeri. Poi guarda, ci fu una cosa strana, insomma, è brutto imbrodarsi, ma diciamo che la media degli 8 anni, quindi considerando tutte le puntate da quel 9% all'ultima, tutte insieme, diciamo, la media era 30 esatto. Mamma mia. Che è un risultato abbastanza strepitoso. Sì. E allora, guarda, per punirti dall'imbrodarsi, ti dico che venerdì 9 dicembre, lo dico per spirito di servizio, evidentemente, sì, certo, venerdi 9 certo. dicembre c'è Sampdoria Juve Stabia, per esempio. E se no, lunedì 19 dicembre hai un Pescara Sampdoria, volendo. Se tu fossi fermato a Sampdoria Juve senza Stabia, hai capito l'illusione. Poteva starci. Invece hai aggiunto, aggiunto il cognome, è andata così. Senti, grazie per tutto questo tempo che già ci hai dedicato. Volevo aggiungertene una che ti dà l'idea, secondo me, dell'abiezione ormai, della fine. Tu la sai quella di Fabio Capello o te la racconto in brevissimo? No, raccontamela. Molto carina. Allora, del matrimonio del figlio, dici? Sì, quella. Cioè tutto era fissato, ma stiamo parlando di Inghilterra-Spagna, non è una di quelle amichevoli che fissi in 2 settimane, no? Quindi era tutto combinato da mesi, eccetera. Fabio Capello, CT dell'Inghilterra, si incontra col figlio, con Pier Filippo, avvocato tra l'altro, che gli dice: papà, avremmo deciso di sposarci quel sabato, eccetera eccetera, siamo tranquilli che sì, dice, la partita con la Spagna è il venerdì, quindi sabato va benissimo, perfetto. Sai perché hanno spostato questa partita Inghilterra-Spagna? Perché nel frattempo il Barcellona, fornitore di mezza nazionale eccetera, ha avuto un posticipo di Coppa del Re in Spagna per via dell'anticipo della Coppa Intercontinentale. Tutto questo ha terremotato Capello e l'ha fatto andare in panchina con un fiore per testimoniare almeno la vicinanza al matrimonio del figlio. Oppure è una clamorosa montatura di Capello che odia i matrimoni. Cosa questa potrebbe essere la vera chiave di lettura. Quella può essere, ci sta. Grazie Fabio. Grazie a te. Grazie. Una mail di un ascoltatore, Daniele Trevisiol di San Donà di Piave, che riguarda, sia pure collateralmente, proprio questo argomento. C'è un aspetto interessante, scrive l'ascoltatore, che la sentenza della Corte Europea sui diritti TV ha portato in qualche modo alla luce. Tutto inglese, la Premier League, con grande lungimiranza, da anni vende alle pay TV solo un certo numero di partite del proprio campionato. Ad esempio, le gare delle 3 del sabato pomeriggio non vengono trasmesse in diretta da alcun canale televisivo inglese, per due motivi. Il primo è mantenere alta la presenza negli stadi, in quanto ogni tifoso sa che non potrà seguire la propria squadra unicamente in TV. Il secondo è valorizzare gli highlights trasmessi dalla BBC proprio delle partite senza copertura in diretta. Significa rinunciare a incassi ancora maggiori dalle TV. Pagherebbero di più se potessero trasmettere tutto, in cambio della fidelizzazione del pubblico da stadio, che a sua volta crea valore per il prodotto televisivo. I pacchetti venduti per l'estero invece non prevedono alcuna restrizione, ed ecco perché nei pub, ma ancor più nelle case inglesi, si sono diffusi decoder e schede estere, oltre certo all'alto costo dell'abbonamento alla pay inglese. Pura fame di calcio in TV, all'italiana insomma, sì, ma con qualche significativa differenza rispetto al modello italiano, che lei, caro Daniele, mi pare abbia opportunamente sottolineato. Allora, d'accordo, la buffata finale, proprio alla maniera di Marco Ferreri, no? La Gran Buff, lo storico film in cui spopolarono grandi attori, a cominciare da Ugo Tognazzi. Però, prima ancora di questa Gran Buff, già da settembre, sin dall'avvio della grande stagione calcistica, le televisioni si erano scatenate, come ogni anno, una volta di più,

Beh, anche per oggi il tempo è vicino allo scadere. Antonio Di Polina tornerà, tra l'altro, tra non molto, agli inizi dell'anno, per un commento, per un raccordo rispetto a questa grande buffata con cui si è chiuso il 2011 calcistico televisivo, e per proiettarci in questa dimensione, perché tanto, come ha già scritto su Repubblica qualche giorno fa, indietro certamente non si torna più dal punto di vista dell'affollamento calcistico televisivo. Grazie dunque a tutti voi per averci seguito anche oggi, a Franco Piantanini in redazione, a Fabio Cantadori per la cura della parte tecnica. Era, per quanto mi riguarda, l'ultima puntata del 2011 e quindi a tutti voi il più felice dei 2012. Buon anno. A tempo di sport.